Raindrops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my. Vissi d'arte, vissi, rubrica di donne, vita e arte. La puntata di oggi si intitola I pantaloni di Rosa Bonheur. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel. Cari amiche e amici, benvenuti a Vissi d'arte, vissi. La donna d'arte di cui ci occuperemo questa sera è Rosa Bonheur, una delle più grandi pittrici del XIX secolo francese. Rosalie, detta Rosa, nasce il 16 marzo del 1822 a Bordeaux, in una famiglia di 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, che seguiranno tutte le orme paterne. Il loro padre, infatti, è Raymond Bonheur, pittore e insegnante di disegno. Raymond Bonheur trasmette ai figli le tecniche e le conoscenze del mestiere, mentre si appassiona al movimento socialista che in Francia, all'epoca, assume le forme utopiche e libertarie del saint-simonismo. Volendo servire gli ideali socialisti, si trasferisce da solo a Parigi nel 1829, per poi essere seguito dalla famiglia un anno dopo. Non è una scelta facile. La madre di Rosa, Sophie Marquis, è una trovatella protetta da una nobile famiglia bordolese, cresciuta in un clima familiare agiato. A Parigi Raymond trova lavoro come insegnante di disegno, ma è tutto preso dall'attività politica e di fatto il peso economico e materiale della famiglia ricade tutto sulle spalle di Sophie, che cerca di integrare le scarsissime entrate familiari con il cucito e altre attività. È un'esistenza faticosa, alleviata solo sporadicamente dal ritorno estivo a Bordeaux, nella casa materna, il castello Grimont a Quinsac, immerso nella natura lussureggiante di un enorme parco e di una grande tenuta agricola. Si tratta di un elemento importante questo, perché presto nelle opere di Rosa, artista precocissima, la natura, in modo particolare gli animali e la vita dei campi, diventeranno il soggetto principale. Dopo pochi logoranti anni di fatiche, Sophie muore nel 1833. Rosa diventa apprendista sarta, ma per fortuna il suo talento pittorico è talmente spiccato da persuadere il padre a utilizzarla come aiutante nel suo atelier, e di fatto sono la sua ferrea concentrazione nell'esercizio dell'arte e il suo indiscutibile talento a permettere alla famiglia Bonheur di tirare avanti. Perso nella sua avventura politica, Raymond Bonheur finisce per ritrarsi sempre di più dalle responsabilità familiari, tanto da passare lunghi periodi in una comune saint-simoniana. Poi sembra ritornare con i piedi a terra e cerca di dare una madre ai suoi figli risposandosi. Rosa però, al contrario dei suoi fratelli, non accetta la nuova venuta e addirittura fugge di casa, tornando a Bordeaux. Torna presto a Parigi però, perché qui ha degli amici, o meglio ancora, ha una seconda famiglia. Alcuni anni prima, infatti, nel 1837, il signor Louis-Frédéric Micat aveva contattato il padre di Rosa per un ritratto della figlia Nathalie. Presto nasce un legame tra le due famiglie, basato sull'irresistibile attrazione tra la dodicenne Nathalie e la quattordicenne Rosa. È l'inizio di una storia d'amore lunga 40 anni, anche se nessuno, a partire dalle due protagoniste, accetterà mai di riconoscerla per quel che è, un indistruttibile legame lesbico. For those who slept, for those who kept themselves jacked up, how Jesus wept Sunday, for those who speed, for those fronte delle sue difficoltà familiari, Rosa Bonheur viene di fatto adottata dalla famiglia Mikas e considerata una sorta di seconda figlia per lui Frédéric e sua moglie Henriette. I Mikas suggeriscono che Rosa prenda un atelier proprio, la sostengono economicamente, permettono che Nathalie diventi l'ombra di Rosa, sempre con lei, studiando anche la pittura. Decenni dopo, in un libro di memorie autobiografiche, l'artista, parlando della sua adolescenza e dei Mikas, ricorderà un evento fondamentale. Qualche giorno prima di morire, il signor Mikas ci fece chiamare mio padre e me. Raymond, disse egli al suo amico, sono molto malato e non durerò ancora a lungo, e anche tu prima o poi morirai. Lascia le nostre due ragazze sempre insieme. Lo vedi quanto si vogliono bene. Rosa ha bisogno della protezione e della devozione di mia figlia Nathalie. Venite, bambine mie, che possa benedirvi. Emozionate, ci inginocchiamo entrambe accanto al suo letto. Dopo aver messo le mani sopra le nostre teste, il buon papà Mikas ci disse: «Non vi lasciate mai, mie care ragazze, e che Dio vi protegga». Poi ci abbracciò. Qualche giorno dopo morì. Da allora, io e Nathalie non ci siamo mai lasciate, e se la morte ci ha poi separate, io spero che le nostre anime si ritrovino. Con questa sorta di rito matrimoniale in famiglia, dunque, e addirittura con la benedizione dei padri, Rosa e Nathalie iniziano una lunga storia d'amore e convivenza. Tanto più dunque può sembrare strano ai nostri occhi che né le ragazze né i loro familiari ammettessero alla loro unione lo statuto di legame, diciamo così, coniugale. Nelle parole di tutti, le due erano legate da un'amicizia, indefettibile e puramente platonica. Ma tale convinzione era solo nelle parole o anche nei pensieri e nelle intenzioni? Per tutta la vita Rosa Bonheur insiste sul fatto di essere pura e di aver avuto solo legami puri. Ora, bisognerebbe comprendere cosa intendesse con puro. Da tempo ormai gli studi hanno individuato il sorgere tra 7 e 800 del fenomeno delle amicizie sentimentali, legami appassionati, amorosi e tenerissimi tra donne, ma socialmente connotati come amicizie e non come legami erotico-amorosi, di coppia. Stante le enormi differenze di linguaggio, di mentalità, di forme di autorappresentazione psichica, c'è impossibile comprendere ai nostri giorni la realtà di tali legami. Forse il concetto che più si avvicina alla realtà di queste unioni è quello coniato da Adrian Rich di continuum lesbico, vale a dire, e cito le sue parole, «Per continuum lesbico intendo una serie di esperienze, sia nell'ambito della vita di ogni singola donna che attraverso la storia, in cui si manifesta l'interiorizzazione di una soggettività femminile e non solo il fatto che una donna abbia avuto o consciamente desiderato rapporti sessuali con un'altra donna». Se allarghiamo il concetto fino ad includervi molte altre espressioni di intensità affettiva primaria fra donne, quali il condividere una ricca vita interiore, l'alleanza contro la tirannia maschile, lo scambio reciproco di appoggio pratico e politico, e se sapremo associarvi anche quegli esempi di resistenza al matrimonio e quei comportamenti da Haggard descritti da Mary Daly, tipo significati obsoleti, una donna indomabile, ostinata, incontinente, licenziosa, una donna riluttante ad arrendersi al corteggiamento, allora cominceremo a recuperare brandelli di storia e psicologia delle donne che ci erano finora esclusi come conseguenza delle definizioni limitative in gran parte cliniche di lesbismo. Le lettere tra le due, le parole di Rosa nelle sue memorie e in altri documenti, il comportamento di amici e familiari di fronte alle due donne, tutto fa pensare che il loro legame fosse né più e né meno un potente legame d'amore lesbico. Rimase platonico a livello fisico? O per essere pura, Rosa intendeva non essere mai stata toccata da un uomo? Si trattava di leggere l'atto sessuale lesbico in modo diverso da quello eterosessuale? C'è impossibile stabilirlo ormai. Certo, per comprendere l'immagine sociale di Rosa Bonheur è importante anche guardarla con gli occhi dei suoi contemporanei. E i suoi contemporanei vedevano, indubitabilmente, una donna vestita da uomo. Rosa Bonheur aveva i capelli tagliati corti in una sorta di caschetto mosso, fumava il sigaro e indossava per lavorare giubbe e pantaloni di foggia maschile. Quanto ciò fosse dovuto alle necessità di una pratica artistica che le richiedeva la frequentazione di campi, allevamenti e mattatoi, e quanto invece talune scelte fossero dovute anche ad uno stile di vita che potremmo definire lesbico, è tuttora oggetto di dibattito. It's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been in for each other. To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Rosa Bonheur non si definiva lesbica, essendo tale sostantivo appena al suo apparire all'epoca, peraltro con implicazioni psichiatriche e morali piuttosto negative, e come già detto, parlò sempre delle sue relazioni come relazioni di amicizia in purezza e unione spirituale, giustificando il suo nubilato unicamente come sacrificio necessario all'arte. Ma al di là di ogni possibile obiezione su consapevolezza, autodefinizione e probabile rimozione, rimane che ella adducesse ostinatamente al suo vestire fuori dalle regole una necessità di tipo pratico. E se a noi non sembra una questione granché interessante, occorre ricordare come nell'Ottocento il vestire da uomo delle donne avesse implicazioni di legge giudiziarie. Camminare nei campi, visitare gli allevamenti e mercati di bestiame, sostare nei mattatoi, calpestando terreni e pavimenti sporchi di fango, sangue e altre lordure. Impossibile farlo igienicamente indossando crinoline e volant. Il medico curante di Rosà, dottor Casadin, redige un certificato medico, sulla base del quale il prefetto di polizia della città di Parigi rilascia il seguente documento da cui vi leggo alcuni estratti. In Parigi, 12 maggio 1857, noi, prefetto, eccetera, autorizziamo la signorina Rosa Bonheur, residente a Parigi in via d'Assas, a vestirsi da uomo per ragioni di salute. La presente autorizzazione è valida per 6 mesi a contare da oggi. Le disposizioni di legge in merito al permesso da accordare a determinate donne di indossare pantaloni per necessità lavorative o pratiche d'altro genere furono emesse per la prefettura di Parigi dal prefetto Louis Dubois nel novembre 1800. Di questa legge approfittarono diverse donne, tra cui il caso più clamoroso fu certo quello della scrittrice George Sand. Stante la fama e il carisma di George Sand, la nostra pittrice non dovette trovarsi troppo in difficoltà nell'ottenere tale permesso, col beneplacito del suo medico. Così, ipocrisia e medicina si alleano per permettere all'artista di lavorare e tutto sommato di vestirsi come vuole. Nella maggior parte dei suoi ritratti ufficiali, tuttavia, Rosa Bonheur indosserà la gonna, anche se non disdegnerà di farsi più raramente ritrarre in pantaloni, magari in immagini a circolazione privata. Tuttavia, le implicazioni personali e sociali delle scelte estetiche dell'artista non sfuggono ai suoi contemporanei, già sollecitati all'epoca non solo dalle donne che richiedevano il permesso di travestimento, ma soprattutto dall'apparire nel 1851 dei bloomers, i pantaloni femminili. Coraggioso quanto fallimentare tentativo delle femministe americane guidate da Amelia Bloomer, che involontariamente diede il nome ai medesimi. Eugène de Mirecourt, autore nel 1869 di un saggio dedicato alla pittrice, dopo averne descritto i lineamenti e le proporzioni, afferma che ella ha mani e piedi piccoli, per quanto gli stivali che usa li nascondono, e questo gli dà occasione di parlare del suo look. Gli stivali, si meraviglieranno i nostri lettori. Non sarà mica una bloomerista la nostra eroina? Ha la fantasia di vestirsi da uomo come Madame George Sand? Sì, ma rassicuratevi, lettori, è per una motivazione diversa. In virtù delle sue scelte artistiche, Mademoiselle Bonheur è obbligata a percorrere le campagne, entrare nelle fattorie, visitare mercati di bestiame. Ella frequenta necessariamente i pascoli, gli agricoltori, i mercanti di bestiame. Tutto nel suo abbigliamento è di una semplicità rara. I suoi corpetti sono tagliati a giacca e non sono ornati né di ricami né di merletti. Veli e stoffe leggeri non sollecitano la sua civetteria. L'artista severa non li ammette in nessuna circostanza. Per strada ha completamente il portamento di un uomo, impossibile distinguere il suo sesso. Cammina veloce, con passo fermo, la testa bassa, senza guardare nessuno, sempre presa da qualche pensiero d'arte. Due grossi cani, uno alla sua destra, uno alla sua sinistra, la scortano in ognuna delle uscite. Severità, controllo, riservo. L'abbigliamento di Rosa Bonheur viene giustificato dal pudore, peraltro vigilato da due cani guardiani, ricacciando sullo sfondo il fantasma emancipazionista di Amelia Bloomer. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so. La stessa artista, d'altronde, nelle sue memorie, parla dello stupore e del malumore degli uomini nei mercati e nei mattatoi nel vedere il loro territorio invaso da una donna. Meglio non dare nell'occhio, meglio essere discrete, a volte dando vita ad equivoci e scambi di identità su cui Rosà scherzerà sempre volentieri. Gli abiti femminili erano un pensiero costante, provocando insulti e derisioni, diventando persino pericolosi. È per questo che ho deciso di indossare abiti maschili. I miei pantaloni sono stati i miei grandi protettori. Molte volte mi sono complimentata con me stessa di aver osato rompere con una tradizione che mi avrebbe condannata, dovendo continuare ad indossare le gonne, ad astenermi da certi soggetti. Senza i pantaloni e la mia giacca non avrei potuto lavorare in sicurezza, neanche nella foresta di Fontainebleau. Non ho mai voluto nascondere il mio sesso, se non nei luoghi in cui era pericoloso mostrarlo. E continuerà a rassicurare i suoi ammiratori. Gli abiti che io indosso sono una tenuta da lavoro e niente altro, giurando poi. Il mio cuore è restato femminile. È ancora nelle sue parole che troviamo un'altra giustificazione al nubilato. Le timide fanciulle europee si lasciano troppo facilmente condurre all'altare, come un tempo gli agnelli andavano al sacrificio su altari pagani. Da molto tempo ho compreso che ponendo sulla sua testa la corona di fiori d'arancio, la fanciulla si rende subalterna. Ed ella diventa solo il pallido riflesso di ciò che avrebbe potuto diventare. Si veste da uomo solo per questione di lavoro, non si sposa per non essere costretta ad abbandonare il suo lavoro, e solo per questo. Tradiamo un certo disagio, forse, di fronte al continuo, patetico insistere di Rosà Bonheur al suo essere una vera donna. Che questa sua operazione di depistaggio dell'attenzione pubblica rispetto ai suoi abiti maschili funzionasse è indicato forse dal fatto che, a differenza di George Sand, tale abitudine fosse raramente criticata e raramente pretesto di caricature e ironie. Se infatti gli abiti maschili di Sand erano espressione diretta e franca di una ricerca di libertà personale che andava ben al di là delle necessità di mestiere, l'insistenza di Rosà Bonheur sulle necessità igieniche e pratiche legate al suo vestire maschile furono meglio tollerate. Inoltre, Rosà Bonheur rimaneva defilata rispetto alla società francese, essendo i suoi obiettivi di fama e successo legati ad un'affermazione personale della propria arte piuttosto che, come nel caso della Sand, a un voler intervenire direttamente ed influenzare gli eventi della vita e della storia francese. ipocrisia della società borghese, giusta comunicazione d'immagine, una diversa frequentazione della pubblica scena. Questi furono insomma elementi utilizzati con grande abilità dalla pittrice per poter indossare a proprio piacimento pantaloni e giacche di foggia maschile. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Ma torniamo all'arte di Rosa Bonheur, che è il tema dell'odierna puntata di Vissi d'arte Vissi. Come abbiamo visto, artista precoce, virtuosa del pennello, decide molto presto di dedicarsi alla peinture animalière, cioè alla pittura di animali. L'analisi minuziosa dei dettagli, il virtuosismo estremo della pennellata, una capacità istintiva di cogliere il momento e il caratteristico. Tutto ciò fa sì che già all'età di 19 anni, nel 1841, ella debutti al Salon, la massima istituzione espositiva francese. 4 anni dopo, nel 1845, il suo primo riconoscimento ufficiale, la medaglia di bronzo. 3 anni dopo, nel 1848, è vincitrice della medaglia d'oro, la massima onorificenza, tanto più eccezionale in quanto concessa a una donna. Quanto ai soggetti, sono tratti dalla vita dei campi e dei boschi. Come già più volte detto in occasioni passate, occorre ricordare come alle donne non venisse concessa senza problemi la possibilità di studiare il nudo e di cimentarsi con temi e soggetti aulici, classici, virili, diciamo così. Alle donne si addicevano temi e soggetti poco impegnativi intellettualmente e moralmente, i cosiddetti generi minori, la natura morta, il ritratto, e le tecniche da salotto, l'acquerello, la tempera, la miniatura. Ma Rosa si impadronisce di questi limiti e li trasforma in punti di forza. La sua pittura d'animali è forte, assertiva, monumentale. Grandi, grandissimi formati, con tele fino a 6 metri di base, e tra gli animali scelti non leziosi gattini o tremule farfalle, ma grossi e pazienti buoi, trainanti aratri nei campi, o i cavalli focosi e selvaggi della Camargue, o i cervi e i lupi che corrono nei boschi. Rifiutando di farsi chiudere nella sua condizione di donna come fosse una gabbia, Rosa lotta con energia e determinazione fuori dal comune e sicuramente, per l'epoca, fuori da ogni nozione di femminilità. Ancora ai suoi inizi l'artista aveva accettato di avere delle allieve, ma le sue maniere forti, anche un po' rudi, e la sua impazienza di sfidarsi la allontanano dall'insegnamento. Passa le sue allieve alla sorella Juliette, pittrice più tradizionale, per dedicarsi a quadri che cominciano ad essere commentati e apprezzati dagli amatori, dalla stampa specializzata e dal pubblico del Salon. Il successo è immediato. L'anno dopo la medaglia d'oro, nel 1849, presenta La ratura nelle campagne del Nivernais, che ottiene un successo di pubblico e di stampa senza precedenti, portando un genere considerato minore, anche quando coltivato da un uomo, all'onore delle cronache e della critica. Si tratta di una tela di grandi dimensioni, 2,60 m per 1,34 m, vero e proprio poema epico della dura fatica dell'uomo e degli animali. Il realismo estremo, quasi mimetico dell'opera, con le sue possenti zolle che sembrano balzare fuori dalla superficie, non appesantisce, ma anzi enfatizza il senso dello sforzo, il dispiegamento dell'energia, la concentrazione estrema dei protagonisti. Spira dall'opera un senso della gravità delle cose, della serietà dell'impegno di uomini e animali, senza però mai cadere nell'aneddotico o nel sentimentale. L'opera, acquistata dallo Stato francese, è per disposizione dello stesso Presidente della Repubblica depositata al Palais du Luxembourg, da cui passerà in quello che attualmente è il Musée d'Orsay. A partire da questo momento la carriera artistica di Rosa Bonheur decolla. Le sue opere sono ricercatissime da collezioni e istituzioni in tutta Europa, fioccano i riconoscimenti, le onorificenze. L'imperatrice Eugenia ne visita l'atelier e le commissiona numerose opere per la decorazione dei suoi appartamenti privati. Nel 1853 Rosa realizza il suo capolavoro, o almeno l'opera più celebre, la gigantesca tela de La Fiera dei Cavalli, 5 metri e 6 centimetri di base per 2,45 metri d'altezza, un turbine inimmaginabile di stalloni e uomini in un groviglio di muscoli frementi, polvere e concitazione, al cui centro si raffigura, a malapena riconoscibile ma ben salda in sella. L'opera viene acquistata da un mercante che la porta in una sorta di trionfale tournée negli Stati Uniti, ove verrà acquistata da un mecenate e donata poi al Metropolitan Museum di New York. Rosa Bonheur e Nathalie Micas partecipano al tour, con grande seguito di giornalisti e celebrità del mondo della cultura. Il loro ménage incuriosisce ed è fonte di timide domande, che ricevono risposte altrettanto timide. Come 100 anni dopo Marguerite Yourcenar farà per la compagna Grace Frick, Nathalie è presentata come l'amica e accompagnatrice. Without truth, we lose. Yeah, we wanna spare the feelings of those. We love. Don't cry, we've all lied, but there is always room for forgiveness, my friend. So don't. Smile for you, my love, and still we will be okay in the longer way. We'll learn a thing or two. will see we are blessed and complete as a flower for you with me. Al ritorno, e in seguito al clamore degli avvenimenti d'oltreoceano, Rosà e Nathalie sono di nuovo in viaggio in Europa e specie in Gran Bretagna. Gli inglesi, appassionati cultori della caccia, della campagna e degli animali, si innamorano dei suoi soggetti, dello stile, della sua conoscenza precisa e amorevole della natura in tutte le sue espressioni. La regina Vittoria riceve le due donne a corte. Rosà Bonheur è al suo apice. Decide di non partecipare più alle esposizioni pubbliche, tanto più che ormai i suoi quadri vengono venduti ancor prima che cominci effettivamente a dipingerli. Nel 1860 acquista il castello di Bie a Thomery, nord-est di Parigi. Qui allestisce gli atelier adatti alle sue tele gigantesche e trova nei giardini e nei boschi della sua proprietà soggetti e ispirazione in abbondanza. Comincia un periodo felice e tranquillo, fatto di lavoro, di lunghe letture, di passeggiate e di accoglienza dei numerosissimi visitatori ed ospiti che vengono da tutto il mondo per riverire la pittrice, come quando nel 1865 è l'imperatrice Eugenia a portarle di persona la medaglia della Legion d'Onore, prima donna a riceverla. Sarà solo dopo la morte di Nathalie, nel 1889, dopo più di 40 anni di vita in comune, a fermarla. Dopo averle tagliato la lunghissima treccia e averla composta nella sua bara, Rosà non lavorerà per molti mesi, affranta dal dolore più grande che l'abbia mai sperimentato dopo la morte della madre. Tuttavia, la vita e l'arte continuano. Poco alla volta Rosà ricomincia a dipingere, a ricevere visitatori. Nello stesso anno 1889 Buffalo Bill, il celebre eroe americano, arriva in Europa e chiede di incontrarla, gli occhi ancora colmi della contemplazione della fiera dei cavalli. Tra i due c'è una simpatia istintiva e Rosà condiscende a fare un grande ritratto del capitano. Per quanto a dir la verità non possa annoverarsi tra le sue migliori opere, all'epoca viene enormemente apprezzato, tanto che quando di lì a qualche anno un incendio devasterà la dimora di Buffalo Bill, la sua principale preoccupazione sarà proprio di mettere in salvo il suo ritratto. Al ritorno di Buffalo Bill negli Stati Uniti, una giovane donna americana si occupa di fungere da contatto tra i due, è Anna Klunke, pittrice. Il loro è un rapporto epistolare, dapprima, poi una frequentazione sporadica. Rosà dà le lezioni di pittura ad Anna ogni qualvolta questa arriva in Europa, ma nel 1898 a B, quella che avrebbe dovuto essere una tra le molte lunghe visite precedenti, si trasforma in un trasloco d'amore. Rosà inizia una convivenza con Anna Klunke, che dice di considerare come una figlia. Anna ha 42 anni, Rosà 76. Anna la segue nel suo lavoro, l'aiuta a scrivere le sue memorie, lavora come sua aiutante sulle tele più grandi, poi, infine, l'accompagna dolcemente alla morte. Rosà Bonheur muore il 25 maggio 1899 e le sue ultime parole ad Anna saranno «Non preoccuparti di me, tu salva Rosà Bonheur». Non sta delirando sull'orlo della morte. In testamento ha legato tutti i suoi beni e le sue opere ad Anna Klunke perché cure la diffusione e la memoria della sua opera. Ma immediatamente i familiari di Rosà Bonheur iniziano un'azione legale per impugnare il testamento e Anna spenderà molti anni ed energie e soldi per salvare l'operato dell'artista dalla dispersione. Parte delle sue opere saranno vendute per tacitare l'avidità dei parenti, ma Anna riuscirà a salvare il castello e molti lavori nel suo atelier, che gli ammiratori possono visitare ancora oggi come casa, museo, atelier. Nel parlare di Rosà Bonheur ci hanno accompagnato le canzoni di Sia, Diana Krall e Mia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro infine una buona serata. Raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings,